La grata gru. Non molto tempo fa, vicino ad un grazioso laghetto, viveva una bella gru. Era l'uccello più bello lì, ma non era molto grato. Odiava le sue gambe, le sue ali, il suo becco e se ne lamentava semplicemente per tutto l'anno. Tutti l'avevano sentito brontolare, dagli uccelli che vivevano nell'albero più alto ai pesci che nuotavano nella parte più profonda dello stagno. Erano tutti molto stanchi di sentirlo. Una notte, mentre stava riposando su un albero, cominciò a borbottare come al solito. Oh, queste mie gambe sono così inutili e queste ali non sono affatto forti, né sono carine. Se solo avessi potuto avere ali colorate come una farfalla. Oh, mi hai spaventato. Oh, il mio cuore batte così velocemente. Anche un cuore così inutile. Che cosa divertente da dire. Nessuno ha un cuore inutile. Allora non sono nessuno. Perché tutto ciò che ho è inutile? Le mie gambe sono come ramoscelli. Il mio becco è lungo e brutto. E le mie ali così pallide e bianche? Nessun colore. Come vorrei essere una farfalla. Piccolo gru, fai attenzione alle tue parole. Pensi davvero che essere una farfalla sarebbe meglio? Sì, lo so. Tutti in tutto il mondo mi amerebbero e adorerebbero. Sarei la creatura più bella di sempre. Vorrei essere una... Ti avevo avvertito, piccolo gru. Ma dico la verità e non dico bugie. Entro domani mattina sarai una farfalla. La mattina dopo, la gru si svegliò. Ma c'era qualcosa che non andava. Non era vicino al suo stagno e non era più nemmeno una gru. Che bel fiore! Ma non ho mai visto un fiore così grande in vita mia. Cosa sono queste dietro di me? Ali! Io non sono più una gru! Sono una farfalla! Infatti, la gru aveva espresso il suo desiderio e ora si era trasformata nella farfalla più bella. Le sue ali avevano colori così brillanti ed era adorabile al sole. Wow! Queste ali sono fantastiche! Colori così belli e così adorabili! E svolazzò via, mostrando le sue ali a tutti i fiori e le api che incontrava. Volò il più in alto possibile per mostrare le sue ali al mondo. Oh, che bellezza che ho! Queste ali sono così belle! Spero che questo non sia un sogno! In quel momento un'aquila lo inseguì. Era così spaventato che iniziò a svolazzare molto velocemente. Ma le sue ali non erano molto utili, erano molto piccole ed era molto difficile scappare. Non riesco a scappare! Oh no! Oh, cosa devo fare? Andare più veloce! Andare più veloce! Alla fine si nascose tra i cespugli e l'aquila volò via. Era così vicina! Queste ali sono terribili per fuggire! Ora cosa faccio? In quel momento, una rana l'aveva individuata. La farfalla sembrava molto bella e la rana pensava che sarebbe stato un pasto delizioso. No! Smettila! Oh cielo! Essere una bellissima farfalla è terribile! Mi ha causato più problemi che mai! Forse se fossi un pesce sott'acqua sarebbe meglio? Un corpo pieno di squame lucenti e senza aquile che cercano di sgranocchiarmi? Forse sarebbe più semplice essere un pesce. La povera piccola farfalla cadde in un sonno profondo. Era molto stanco dopo l'inseguimento e la paura che aveva affrontato. Uh-huh. ma è stato solo un sogno molto strano. Farfalle e aquile? Spaventoso! Cos'è questo? Perché non posso volare? Presto si rese conto che le ali con cui stava cercando di volare erano ora minuscole pinne. Pinne? Dove sono le mie ali? Sono un pesce! E questo è l'oceano! Il mio desiderio si è avverato! Queste squame sono così belle! Brillano proprio come gli specchi colorati! E se ne andò, guardando tutti gli adorabili coralli e gli splendidi pesci che nuotavano dappertutto. Il mare è così bello e io sono così bello. Mi trovo benissimo qui. Niente può disturbarmi qua giù. Ma mentre nuotava e canticchiava, presto arrivò in una zona molto solitaria. Si stava ancora guardando intorno quando improvvisamente si imbatté in qualcosa di rosa e morbido. Cos'è questo? È così morbido! È soffice! È molto divertente giocare con... Continuò a giocare con la cosa strana fino a quando all'improvviso un polpo gigante uscì da dietro una roccia. Stava giocando con uno dei suoi tentacoli e il polpo non era affatto contento di questo. Mio Dio! Ti prego, non farmi del male! Ciao! E via si precipitarono. Il povero pesce nuotava molto velocemente nel tentativo di sfuggire all'enorme polpo, ma il polpo era veloce e il pesciolino non era così abituato a nuotare. Era proprio vicino! Non mi aspettavo così tanti problemi anche in mare! Voglio dire, ci sono problemi dappertutto, piccolo pesce, non lo sai? Chi sei? Ti conosco? No, non penso che tu mi conosca. Ma sembri familiare. Voglio dire, certo che non mi conosci. L'oceano è molto vasto, vedi? Se solo fossi la bestia più forte, quindi nessuno sarebbe sfidarmi. Il più forte sarebbe un leone. Vorrei poter essere un leone. È così. Allora non sei felice di essere un pesce con squame lucenti? Non mi servono. Che bello sarebbe se potessi essere il re più coraggioso di tutti. Se è quello che pensi e se è ciò che desideri, allora ti sarà concesso, mio piccolo pesce. E in un attimo il pesce venne circondato da molte, moltissime bolle. Chiuse gli occhi per la paura e sentì la potenza del mare circondarlo. E all'improvviso il boato scomparve. Aprì gli occhi e si ritrovò in piedi nel mezzo di una giungla. La giungla? Perché sono qui? Aspetta, zampe? E una coda? Sono un leone! Il suo ruggito era così forte che fece tremare tutte le foglie intorno a lui. Io sono un leone, il re della giungla, re di tutte le bestie. Nessuno sarà venire a farmi del male. E così iniziò a camminare nella giungla, sentendosi estremamente maestoso. Ruggì a tutti i piccoli animali che vide e loro corsero e saltarono via dalla sua strada. È semplicemente fantastico. Non ho mai saputo quanto potere potesse avere un leone. Questo è così divertente. Ma mentre camminava, entrò in una trappola dei cacciatori e fu presto intrappolato in una gabbia da cui non riuscì a uscire. Che cos'è questo? Lasciatemi uscire, lasciatemi andare! E da dietro i cespugli arrivarono i due cacciatori. Erano molto malvagi e presto il leone iniziò a temere. Che meraviglioso leone! Se lo prendiamo ora, saremo in grado di venderlo a un prezzo molto buono. Sì, sbrighiamoci e portiamolo via. Il povero leone, sentendo questo, iniziò a tremare moltissimo. No, no, per favore, non portatemi da nessuna parte. Qualcuno, aiuto! Non voglio più essere un leone. Ero felice quando ero una gru. Lasciatemi andare di nuovo, una gru! Era solo un sogno. Oh, grazie a Dio! Oh, sono così felice di essere di nuovo me stesso. Le mie adorabili gambe, il mio bellissimo becco e le mie ali forti e magnifiche. Sono così orgoglioso di tutto questo. Oh. La gru aveva imparato la lezione. È importante essere grati per quello che abbiamo e per quello che siamo. Un semplice sogno glielo aveva insegnato? Oh, forse non era affatto un sogno.